Capitolo 48. Dopo queste cose, fu detto a Giuseppe: ecco, tuo padre è ammalato. Allora egli prese con sé i suoi due figli, Manasse ed Efraim. Giacobbe ne fu informato e gli fu detto: ecco, tuo figlio Giuseppe viene da te. Israele raccolse le sue forze e si mise seduto sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe: il Dio Onnipotente mi apparve a Luz nel paese di Canaan, mi benedisse e mi disse: ecco, io ti renderò fecondo, ti moltiplicherò, ti farò diventare una moltitudine di popoli e darò questo paese alla tua discendenza dopo di te, come proprietà perenne. Ora, i tuoi due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto, prima che io venissi da te in Egitto, sono miei. Efraim e Manasse saranno miei, come Ruben e Simeone. Ma i figli che hai generato dopo di loro saranno tuoi. Essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli, quanto alla loro eredità. Quanto a me, mentre tornavo da Padaran, Rachele mi morì nel paese di Canaan durante il viaggio, a qualche distanza da Efrata, e la seppellì in quel luogo, sulla via di Efrata, che è Betlemme. Israele guardò i figli di Giuseppe e disse: questi chi sono? Giuseppe rispose a suo padre: sono i miei figli, che Dio mi ha dati qui. Ed egli disse: ti prego, falli avvicinare a me, e io li benedirò. Gli occhi di Israele erano annebbiati per l'età e non ci vedeva più. Giuseppe li fece avvicinare a lui, ed egli li baciò e li abbracciò. Israele disse a Giuseppe: io non pensavo più di rivedere il tuo volto, ed ecco che Dio mi ha dato di vedere anche la tua prole. Giuseppe li allontanò dalle ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese tutti e due, Efraim alla sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse alla sua sinistra, alla destra di Israele, e li fece avvicinare a lui. E Israele stese la sua mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando le mani, perché Manasse era il primogenito. Benedisse Giuseppe e disse: il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri, Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi. Siano chiamati con il mio nome, con il nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e si moltiplichino abbondantemente sulla terra. Quando Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra sul capo di Efraim, ne ebbe dispiacere e prese la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. Giuseppe disse a suo padre: non così, padre mio, perché questo è il primogenito. Metti la tua mano destra sul suo capo. Ma suo padre rifiutò e disse: lo so, figlio mio, lo so. Anch'egli diventerà un popolo, anch'egli sarà grande. Nondimeno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui, e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni. In quel giorno li benedisse dicendo: di te si servirà Israele per benedire, e dirà: Dio ti faccia simile ad Efraim e a Manasse. E mise Efraim prima di Manasse. Poi Israele disse a Giuseppe: ecco, io muoio, ma Dio sarà con voi e vi farà ritornare nel paese dei vostri padri. Io ti do una parte di più che ai tuoi fratelli, quella che conquistai dalle mani degli Amorei, con la mia spada e con il mio arco.